Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Cuore Denari. Allora, immaginatevi questa scena. Una signora, siamo a Grosseto, va alla posta per ritirare la pensione. Come sempre, il primo del mese si sente dire che l'assegno non è arrivato. Non per un ritardo, ma perché per l'INPS non risulta proprio nella sua anagrafe e non dovrebbe essere pagata questa signora. Perché? Perché risulterebbe deceduta. Una scena veramente da film di fantozzi, e diciamo che, come vuole la scaramanzia, in questi casi le hanno allungato la vita, speriamo quantomeno che lei l'abbia presa così, con filosofia. Purtroppo non hanno allungato gli zeri dell'assegno della sua pensione, che è una piccolissima pensione da nemmeno 500 euro. Un episodio davvero curioso che ci porta comunque, se vogliamo con un pizzico di sorriso, anche se la signora di Grosseto non avrà sorriso affatto, che ci porta al tema della pagina di denari di oggi, le nostre pensioni. Prima di preoccuparci di non riceverle per qualche errore burocratico, ci preoccupa capire quando arriverà il momento di andare in pensione. Sono proprio per altri giorni in cui si sta di nuovo rifacendo il famoso dibattito sulla busta arancione, arriva o non arriva. A quanto pare è sempre più lontano questo momento di andare in pensione, perché la vita si allunga, bontà nostra, il processo demografico è ineluttabile. Sappiamo che su questo argomento sono tantissime le vostre domande, voi ce le potete fare se volete all'800 24 00 24, a qualcuno risponderemo, a quelli a cui non riusciremo a rispondere daremo l'opportunità, se volete, di leggere la guida pratica che oggi il Sole 24 Ore pubblica proprio su questo tema, una guida alle pensioni e a tutte le novità del 2016. Anche noi, Deborah, parliamo di pensione in un certo senso. Cerchiamo di trovare il modo per mandare in pensione l'ansia, prima che l'ansia mandi in pensione il nostro cervello. Le ricerche dimostrano che l'ansia condiziona le funzioni cognitive, quindi memoria, capacità critica, linguaggio, e può anche indurre patologie molto gravi. Pensate che un recente studio svedese ha messo in evidenza che chi soffre o ha sofferto di disturbi d'ansia ha un rischio aumentato del 50% di ammalarsi di una forma di demenza senile, la più diffusa tra le quali è la malattia di Alzheimer. A sentirlo viene un po' d'ansia, ma chiamateci che ci facciamo spiegare tutto dai nostri esperti, ma come sempre vi invito a intervenire per raccontarci di voi. A proposito di voi, delle vostre esperienze, quando dite ho l'ansia, cosa intendete esattamente? Volete provare a spiegarcelo? Se avete la sensazione che il vostro livello di ansia abbia superato i limiti di guardia, se notate che situazioni, occasioni, problemi per gli altri normali stanno diventando per voi veramente un disturbo grande, chiamateci, noi siamo qui pronti a darvi delle indicazioni, a rispondere alle vostre domande e ad aggiornarvi sui nuovi studi in merito. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Bigliettini con gli auguri mi scriverai o bottiglie regalerai. Allora, il tema pensione effettivamente un po' di ansia la genera qualche volta, e in questi anni abbiamo sperimentato stati d'ansia per molte persone, per i famosi esodati, per tutti coloro che magari pensavano di vedersi arrivare l'assegno pensionistico da un momento all'altro, forse erano stati raggiunti tutti i requisiti e poi con le riforme degli ultimi anni questi requisiti sono stati modificati e l'assegno pensionistico è scappato. C'è anche un altro tipo di ansia, di quelli per esempio che avrebbero l'opportunità di andare in pensione, magari l'azienda incentiva questo momento e molte persone invece non ci vogliono andare perché vedono il momento della pensione come quella fase che in realtà è difficile da accettare. Insomma, tanti i casi. Detto questo, voi quando andrete in pensione avete le idee chiare? Quali sono i vostri dubbi? Raccontateceli all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666. Riceviamo i vostri sms ma leggiamo anche WhatsApp. Per chiarirvi un po' le idee, oggi in edicola con il Sole 24 Ore c'è una nuova guida pratica dedicata proprio alle pensioni. È un inserto a parte che va pagato, quindi lo dovete richiedere in edicola, precisiamolo subito per chiarezza. Pensioni 2016, le novità della manovra 2016, requisiti più severi per andare in pensione, vi leggo qualche sottotitolo. Focus sull'importante tema della previdenza complementare, le istruzioni per calcolare l'assegno. La conosce a memoria questa guida Maria Carla De Cesari del Sole 24 Ore, che ne ha scritta una bella parte. Buongiorno. Buongiorno Carla. Non esageriamo, Deborah. Però insomma sei una grande esperta di questo argomento per il quotidiano. Ce la racconti un pochino come è strutturata questa guida, quali sono le novità? università più importanti sull'argomento che sono intervenuti negli ultimi mesi e sulle quali avete fatto un focus specifico. Sì, dobbiamo distinguere due livelli. Il primo è quello diciamo derivante dalla legge di stabilità per il 2016, che non ha portato diciamo uno stravolgimento dell'assetto del sistema previdenziale, ma ha fatto piccoli correttivi. Tutti si immaginavano che venisse in qualche modo estesa la flessibilità di andare in pensione con un po' di anticipo rispetto ai requisiti molto severi previsti dalla legge Fornero. Invece, come dire, il governo si è accontentato di un intervento di minima e ha semplicemente previsto la possibilità che datore di lavoro e lavoratore si accordino per diciamo la possibilità di un part-time. Negli ultimi anni di vita aziendale del lavoratore, e questo è questa possibilità del part-time, quindi di abbinamento pensione part-time, è limitata diciamo a coloro che matureranno i requisiti per la pensione entro il 2018, quindi veramente i lavoratori a cui mancano pochi anni. Questo appunto è un accordo che passa tra lavoratore e azienda. Naturalmente non occorre un accordo collettivo, e il lavoratore dovrebbe incassare diciamo quella parte dei contributi che il datore di lavoro risparmia avendo diciamo instaurato un part-time, e questa piccola grande somma è esente da ogni tassazione. Poi abbiamo diciamo comunque l'interpretazione sull'opzione donna, che viene in qualche modo prolungata fino al 2018, quindi con la possibilità per le donne di optare per il sistema contributivo con in luogo del misto, no? Peraltro anticipo già che alle 10:45 faremo un focus esattamente su questo, proprio con le donne del comitato opzione donna, che hanno duramente lottato in questi ultimi mesi, soprattutto per quelle che rischiavano di essere escluse da questa opzione. Poi spiegheremo di nuovo le ragioni di questa diatriba che si era creata per una diversa interpretazione della norma fra Ministero delle Finanze e IMSS. Chiusa parentesi intanto. Sì, Carla. E quindi queste sono un pochino le questioni più rilevanti che derivano dalla legge di stabilità. L'altra questione molto importante deriva diciamo da una interpretazione, da una corretta interpretazione di quello che è la perequazione. Cosa significa perequazione? La perequazione è l'indicizzazione delle pensioni al costo della vita. Naturalmente in periodi di bassa inflazione, esatto, anzi di deflazione, questo comporterebbe una riduzione degli assegni alla fine, quando poi l'inflazione diventa definitiva. Quindi, come dire, si rischia di partire con un'aspettativa magari di un piccolo aumento, di un piccolo adeguamento, e poi alla fine magari si arriva, come è successo quest'anno, con la prospettiva invece di un taglio. Ebbene, questo meccanismo per la prima volta sarà congelato, quindi, come dire, ci sarà una repercussione sugli assegni, ma in qualche modo viene limitata. E poi ci sono c'è l'altro piano molto importante, che sono gli adeguamenti previsti dalla legge Fornero, gli adeguamenti automatici. Da un lato il fatto che appunto quest'anno, per effetto dell'aspettativa di vita, i requisiti anagrafici e contributivi in qualche caso per andare in pensione sono aumentati di ben 4 mesi. E dall'altro, per tutti coloro che hanno diciamo o tutta la pensione o quote di pensione calcolate con il contributivo, questa quota di pensione o tutta la pensione calcolata con il contributivo viene valorizzata un po' meno per effetto dei coefficienti che vengono utilizzati per trasformare i contributi in assegno. Allora, un tema estremamente complicato, insomma, per chi pensa che sia sufficiente lavorare per un tot di anni, crearsi un montante contributivo al termine dell'età lavorativa, della vita professionale. Questo montante contributivo banalmente va trasformato in assegno pensionistico. Così non è, perché le variabili da considerare sono tante: quella che è stata la crescita del paese, il cosiddetto tasso di sostituzione, l'aspettativa di vita. Peraltro tu ti sei soffermata proprio su questo concetto, ben 4 mesi di allungamento del concetto dell'aspettativa di vita. Perché quando parliamo di pensione anche 4 mesi, Carla, come in questo caso, come nella novità di quest'anno, sono così importanti? Beh, 4 mesi non sono pochi. Diciamo che erano già preventivati rispetto alle tabelle della legge Fornero, però se pensiamo che nelle tabelle della ragioneria diffuse, mi sembra un anno fa, già si evidenzia la possibilità che come dire, i requisiti per il pensionamento siano aumentati ulteriormente rispetto a quanto, diciamo, si preventivava, si stimava nella relazione di accompagnamento della legge Fornero, capiamo che veramente diventa pesante. Poi l'effetto trascinamento dell'aspettativa di vita porterà davvero a come dire, a pensionarsi verso i 67-68 anni. C'è già un gran dibattito tra i nostri SMS proprio su questo. Io mi rendo conto che veramente facciamo fatica a vederci lavorare o sulla scrivania o peggio ancora magari davanti ad una catena di montaggio fino a quell'età, e questo però è anche frutto di un processo demografico inevitabile che è in corso. L'età media si è notevolmente ampliata nel nostro paese, come in tante altre economie che in qualche maniera affrontano anche con queste riforme che sono dure naturalmente questo tra virgolette problema, perché poi siamo anche contenti di vivere di più, però non tutti naturalmente riescono a sostenere lavori duri, impegnativi, per cui forse è quello il tema che andrebbe considerato, la modalità rimodulare la nostra presenza sul lavoro ad una certa età. Certo, questo è veramente il problema, anche perché sappiamo che in momenti di crisi le aziende tendono, come dire, a cercare di ridurre il costo del personale. Naturalmente il personale che ha più anzianità aziendale costa un po' di più, se non altro per gli adeguamenti, gli scatti stipendiali, e poi, come dicevi tu, talvolta è molto difficile lavorare ad una certa età facendo le mansioni che magari si ricoprivano a 40 anni, a 45 anni, nel pieno della propria, del proprio vigore. Questo è proprio un problema che è subito sorto all'indomani dell'approvazione della legge Fornero, perché le aziende non sono in grado talvolta di, come dire, avere lavoratori molto anziani nelle stesse funzioni. Quindi il trovare una soluzione flessibile per consentire ad aziende e lavoratori di un invecchiamento, come dire, oggi si parla di invecchiamento attivo. Questo è davvero un grande problema. Come dicevi tu, il lavoro alla catena di montaggio è uno delle attività che è considerato usurante, quindi fruisce di sconti, però anche il lavoro non usurante scontissimi. Certo, non scontissime, ma anche il lavoro usurante è soggetto all'aumento dei requisiti e quindi, come dire, le quote sono aumentate dell'aumento collegato all'aspettativa di vita. Tante questioni da conoscere. Allora, intanto qua vedo che sono con grande ritardo. Le informazioni sul traffico non sono ancora andate in pensione, no, per cui vogliono farsi sentire. E noi qua andiamo a fare cuore e denari fra una decina d'anni con la dentiera. Guarda un po' che prospettive che ho stamattina. A tra poco. Cuore e denari. Donne, in cerca di guai. Donne, un telefono che non suona mai. Ed effettivamente ci sono molte donne che vorrebbero che il telefono squillasse, che magari fosse l'INPS a dare loro qualche buona notizia. Adesso ne parleremo con la nostra prossima ospite, perché un capitolo delle novità recenti sulle pensioni italiane è dedicato proprio alle donne. Cosa ha fatto la legge di stabilità? Ha ampliato la possibilità per le lavoratrici di optare per il sistema contributivo e quindi andare in pensione prima. La guida del Sole 24 Ore, di cui vi abbiamo parlato fino a poco fa con Maria Carla De Cesari, ci ricorda che questo è l'effetto, per gli appassionati dei riferimenti legislativi, dell'articolo 1,281 appunto della manovra di stabilità, che è la 208 del 2016, che interviene sulla cosiddetta opzione donna, che molti ricorderanno, anzi molte, era stata introdotta in via sperimentale dalla legge 243 del 2004, ma che ha rischiato di essere compromessa da una serie di interventi effettuati dal Ministero dell'Economia, a cui poi sono seguite precisazioni IMSS non sempre chiarissime e cristalline. Qua ecco poi il conflitto anche fra queste due istituzioni. Buongiorno a Dianella Maroni, fondatrice del Comitato Opzione Donna. Buongiorno Dianella. Buongiorno. Ci ritroviamo qua. che ha condotto una battaglia durissima per tutto il 2015, forse anche da prima, su questo tema, in particolare da quando il Ministero dell'Economia ha fornito una lettura restrittiva sui requisiti per godere di questa opzione. Io ricordo ancora il numero verde per le donne interessate a questo tema, 800 24 00 24. Aspettiamo soprattutto il contributo di quelle donne rimaste virtualmente intrappolate di Anella fra le interpretazioni differenti del Ministero dell'Economia e dell'INPS e per le quali la situazione si è sbloccata in virtù della legge di stabilità. Adesso ricorderemo quali sono i requisiti per poter sfruttare opzione donna, ma la vostra battaglia, Dianella, lei su Facebook scriveva proprio in queste ultime ore: domani sarò a Radio 24 e dirò che abbiamo raggiunto l'obiettivo, ora si deve lavorare per controllare il famoso contatore per le donne dell'ultimo trimestre che, pur avendo una porta aperta, al momento non possono varcare la soglia. Le concedo il microfono per farci un punto della situazione. Grazie, buongiorno a voi. Allora, noi abbiamo raggiunto l'obiettivo, come ho detto su Facebook, con una lotta che è durata 18 mesi, da luglio del 2014, una lotta che ci ha impegnato su tanti fronti, però una lotta che abbiamo fatto non contro, ma con. Siamo riusciti a coinvolgere la Commissione Lavoro, i politici, in maniera trasversale, abbiamo tutto l'arco costituzionale che ha votato all'unanimità rispetto a questa cosa che l'ha portata avanti. Dianella ha fatto anche un sacco di blitz al ministro Poletti in tanti eventi pubblici, so che lei si presentava per avere l'opportunità di parlarci direttamente, veramente, insomma, l'abbiamo seguita un po' sul comitato, sì, sulle social network, Dianella. Sì, abbiamo contattato, abbiamo cercato di inseguire nei vari eventi il ministro Poletti, Boeri, insomma, tutti i personaggi che comunque potevano contare in questo ambito, perché volevamo spiegare che c'era un errore che era da risolvere e soprattutto che non è solo un problema delle donne che vogliono andare in pensione prima, ma il problema più grave è delle donne che erano a casa licenziate senza nessuna tutela. Allora noi oggi abbiamo raggiunto il risultato, secondo me importantissimo, che le donne che per 10 anni non avrebbero preso un euro, nulla, possono prendere una pensione. È più piccola perché è col contributivo, però hanno qualcosa, non devono vivere di sussidi, e questo è fondamentale. L'altro aspetto bellissimo secondo me è che siamo riusciti appunto a lavorare bene, a creare un movimento che è stato solidale, un movimento che ha portato al risultato e che l'ha portato partecipando, creando qualcosa di nuovo che ti è stato riconosciuto anche da politici, una forma di partecipazione attiva che concretamente ha fatto dei passi assieme a chi sta in Parlamento. Questo credo che sia importante, forse può essere anche di stimolo per chi ancora sta lottando per altre battaglie. Certo. Vorrei sottolineare la questione delle donne dell'ultimo trimestre. Ecco, a quale trimestre ci riferiamo, Dianella? Allora, il trimestre sono praticamente le donne che nel periodo ottobre, novembre, dicembre 2015 hanno compiuto i 57 anni se dipendenti o i 58 se autonome, perché praticamente è stata mutuata la posizione INPS. L'INPS ha sempre sostenuto che la legge introduttiva dell'aumento della speranza di vita si applicava anche ad opzione donna, purché fosse, anche se era una legge in realtà sperimentale. Applicando questi 3 mesi, la legge di stabilità dice tutte le donne che hanno i 57 anni e 3 mesi entro il 2015, ovvero i 58 e 3 mesi se sono autonome entro il 2015, possono usufruire di questa cosa. Quindi chi compie 57, 58 in questo periodo i requisiti li matura in questo primo trimestre in corso praticamente, sì, ecco. Esatto. E allora cosa si è riusciti a fare? La porta era chiusissima, si è riusciti con un'abile, secondo me, mossa del presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano. Sì, a introdurre un contatore. Cioè la Commissione Lavoro dice: sono stati stanziati troppi soldi, sono sicuramente eccessivi i 2,5 miliardi stanziati per opzione donna, sono eccessivi. Se sono eccessivi, dice, noi li vogliamo controllare, noi li terremo controllati. A settembre vogliamo sapere quanti sono stati spesi, vogliamo aggiornare le previsioni e capire, perché l'obiettivo che ci è stato confermato anche nel recente evento che abbiamo fatto a Roma proprio per festeggiare e per rilanciare questa richiesta è di verificare e eventualmente, e io mi auguro che sia possibile, avere le risorse per chiudere, risolvere anche questo problema, cioè tutte le donne che compiono gli anni nell'ultimo trimestre 2015. Tra l'altro voi avete fatto un calcolo, devo andare già in pausa, fra un po' c'è il giornale radio, sì, di quante donne sarebbero interessate a far valere l'opzione e che ricadono in quest'ultimo trimestre. Anche il Sole 24 Ore, anche Maria Carla De Cesare ha fatto un sacco di calcoli, forse non relativi a questo trimestre, sono dei calcoli complessivi su tutte le donne che hanno optato o meno. Dianella, allora, quante donne sarebbero in ballo? A noi 10 secondi. Noi non abbiamo un calcolo perché l'INPS non ha ancora fornito i dati neanche al Ministero, figurarsi se li fornisce a noi. Abbiamo già preso contatti con l'INPS in questi giorni, proprio ieri, la nostra responsabile della comunicazione. Veloce, insomma, che devo chiudere? Quindi aspettiamo la circolare per questo e poi saremo attenti a vigilare anche insieme alla Commissione Lavoro su questo contatore a settembre. Bene, grazie. Tanto ritorniamo su questi temi perché c'è un altro comitato attivo dopo il giornale. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Prepariamoci per l'esodo, il grande esodo. Abbiamo scomodato Battiato per introdurre, anche se non ce la facciamo a farlo subito, un altro approfondimento che è curato da questa guida alle pensioni 2016 che esce oggi con il Sole 24 Ore, il tema degli esodati. Sta partendo la settima salvaguardia. Adesso però stavamo esplorando il mondo di Opzione Donna con Dianella Maroni, che ci ha raccontato la battaglia per queste donne che hanno maturato nel 2015 i requisiti per poter andare in pensione un po' prima del previsto. Naturalmente grazie al sistema pensionistico, appunto, retributivo, contributivo, ho detto bene Dianella Maroni, che già stamattina sto facendo esatto, confusione. Il contributivo in luogo del misto, ci ha spiegato a che punto è la loro battaglia, le iniziative che hanno condotto, le battaglie che hanno vinto. Anche c'è anche un altro comitato che sta dando battaglie, in questo caso parliamo del gruppo Opzione Donna proroga 2018, ma prima di sentire una rappresentante appunto di questo comitato, che è Giulia Molinaro, che peraltro ringrazio. Buongiorno Giulia, benvenuta anche a lei. Buongiorno, saluto anche Dianella. Eccoci qua, perché insomma a distanza voi fate una battaglia più o meno comune. Però volevo sentire prima un'altra donna, Anna da Torino, che in realtà voleva capire se rientra fra i requisiti o della prima opzione o di questa seconda proroga, appunto, per poter andare in pensione un po' prima del previsto. Anna, buongiorno. Buongiorno, allora io appartengo all'ultima decade del 1958 come lavoratrice dipendente. E quest'anno avrei 37 anni di contributi e volevo capire se in qualche modo riuscivo ad andare in pensione con l'opzione donna e quanto ci avrei rimesso. Allora, anche perché ho dei problemi lavorativi, nel senso che da 3 anni e mezzo continuiamo a essere indietro di stipendi e nell'inframmezzo questa situazione ha portato dei grossi problemi di salute a livello di stress, e per cui volevo capire innanzitutto se non si è mai informata andare, lei Anna ha provato a capire se potesse ricadere nell'opzione, perché da quello che capisco, se non ho capito male quello che mi ha spiegato prima Dianella Maroni, ricade Anna nel famoso terzo trimestre, sì, l'ultimo, quarto. Nell'ultimo, sì, vabbè. Sì, quando compie gli anni. Nell'ultima decade del trimestre, diceva, quindi a dicembre, fine dicembre? No, il 15 di ottobre del 58 l'ho compiuti, 57. Ah, ultima decade, avevo capito prima. Ha compiuti 58 e 57? Ne ho compiuti 57. Dianella. Ed è lavoratrice. 58. Dipendente. Dipendente. Sì. Allora rientra nell'ultimo trimestre, cioè le signore che hanno una porta aperta, perché la legge di stabilità, introducendo il contatore, prevede che a settembre ci sia la verifica dei conti rispetto a ciò che si è speso e si possano fare previsioni più adeguate e quindi valutare se quei 2,5 miliardi stanziati per la copertura di questo di opzione donna sono sufficienti anche per allargare la platea e quindi recuperare questo ultimo, diciamo, trimestre, che è il quarto trimestre del 2015, in cui le donne raggiungono il requisito dell'età. Quindi al momento Anna deve rassegnarsi quantomeno ad aspettare settembre dell'anno prossimo, quando verrà fatto un punto sulla al momento no, non contatore. Deve rassegnarsi, secondo me deve agire assieme alle signore messe come lei, perché rassegnarsi, se noi ci fossimo, sì, ho usato il termine sbagliato, ma quanto vero, avere la pazienza di aspettare fino a settembre. No, ha ragione. No, bisogna che sia attenta, può seguirci sia sul comitato, c'è anche un gruppo specifico per il terzo trimestre che agisce, può seguire gli interventi dei componenti della commissione lavoro, in primis Cesare Damiano, che ne è presidente, che appunto stanno portando avanti questa battaglia con molta forza e anche molta sensibilità, direi. Mm-hmm. Quindi io credo e mi auguro che si possa trovare una soluzione. Allora, Anna, la metteremo in contatto con Dianella Maroni per il comitato Opzione Donna. Intanto, Giulia Molinaro, gruppo Opzione Donna, proroga 2018. Anche voi grandi speranze riposte nel contatore. Sì, diciamo che noi siamo le sorelle tutte più piccole, ma non di molto. Ecco, quanto più piccole, non si chiede mai l'età di una signora, però in questo caso dobbiamo farlo necessariamente. Nel nostro gruppo non siamo poi così più piccole, alla fine abbiamo anche delle sessantenni che comunque hanno 35 anni di contribuzione, certo. Sono, il nostro gruppo è nato a luglio a seguito dei disegni di legge che sono depositati alla Camera e al Senato. Abbiamo visto questi disegni di legge che appoggiavano alla proroga del 2018 e di conseguenza abbiamo aperto il gruppo e a oggi ci troviamo già a 4.800 iscritte. Che cosa vuol dire proroga 2018? Giulia, ci spieghi rapidamente, perché fra un po' dobbiamo andare al tema di cuore, anche se questo è un tema che sta a cuore a tante persone, donne, esatto. Donne in particolare. Esatto. La proroga al 2018 è l'estensione della legge 243, la legge dell'opzione donna, la legge Maroni del 243. Che peraltro ricordiamo era stata sperimentale, poi progressivamente È sperimentale e infatti noi alla fine del 31/12/2015 ci sarebbe stata una verifica per un'eventuale prosecuzione della cosiddetta opzione donna. Ecco, è inutile, continuo a dire che comunque noi siamo determinate a lottare perché il contatore lo controlleremo anche noi, certo. lo monitoriamo affinché i risparmi di questo contatore vadano a finire anche oltre al 31 dicembre 2015. Che rimangano insomma nel paniere per l'opzione donna, certo. E quindi possano questi 2,5 miliardi essere anche a favore per l'opzione donna. Grazie, grazie a Giulia Molinaro. Noi speriamo che avervi dato voce in qualche maniera possa esservi d'aiuto, come abbiamo provato a fare anche nei mesi passati con Dianella Maroni. Quindi io vi ringrazio, soprattutto plaudo anche il vostro impegno al metterci la faccia in prima persona in queste battaglie, poi ad essere rappresentative delle istanze di moltissime donne che magari non hanno la stessa forza, lo stesso coraggio per esporsi fino a questo punto. Peraltro, Maria Carla, torno un po' a te. Leggevo dalla guida che saranno almeno 32.800 le donne che fra il 2016 e il 2018 preferiranno rinunciare a parte dell'importo pensionistico pur di smettere prima di lavorare. Come la vedi tu questa iniziativa del contatore di Damiano? Ma è senz'altro utile, perché come dimostra per esempio anche tutta l'esperienza degli esodati, talvolta si stanziano risorse che si rivelano sovradimensionate, quindi come dire è utile capire quali saranno effettivamente le scelte. Sugli esodati abbiamo visto che in pratica a fronte di un certo quantitativo di risorse poi se ne sono attinte molto si è attinto molto, molto meno, quindi da qui anche la possibilità della settima salvaguardia per coloro che sono rimasti diciamo un po' intrappolati nelle maglie della riforma Fornero. E va detto che è molto utile diciamo il lavoro di questi comitati soprattutto per sensibilizzare alla possibilità di una flessibilizzazione dell'accesso alla pensione. Naturalmente tutto questo costa, perché andare prima in pensione, anche se con il contributivo, vuol dire che l'INPS, vuol dire che il sistema pubblico deve pagare prima assegni che in qualche modo si era pensato che si sarebbero pagati in un altro momento. Quindi in un sistema in cui, come dire, il finanziamento avviene con delle pensioni, avviene con i contributi di chi è attivo, naturalmente tutto questo pone un problema di risorse. Tema molto interessante. Allora, per non svilire il tema degli esodati, che è molto delicato, io direi che rinviamo un approfondimento adeguato a questo argomento in un'altra puntata, perché tanto le domande per aderire alla settima salvaguardia dovranno essere fatte dal primo marzo, entro giusto? Entro il primo marzo. No, magari entro la fine di gennaio facciamo una puntata appositamente dedicata agli esodati della settima salvaguardia. Guardia, volevo commentare la domanda che ci stava arrivando da Isaele, ma poverino era in attesa da talmente tanto tempo e a furia di sentir parlare tutte queste donne si è anche stancato, però la riassumo la sua domanda perché mi sembrava interessante. Carla, lui racconta: ha fatto l'estratto conto contributivo, quindi è andato a visualizzare, dotato di tutti i PIN dispositivo sull'INPS, sul sito dell'INPS, quanti contributi ha versato e ha fatto si è fatto da solo la famosa busta arancione, perché qua ancora stiamo discutendo del fatto che molti l'aspettano a casa e non si attivano per andare a verificare la propria posizione. Un 45enne e dice: quando ho visto la simulazione dell'assegno, quanto avrei preso, mi è venuto un mezzo infarto. Diciamo che questo è il punto centrale del valore della busta arancione, una presa di consapevolezza, anche un po' dura qualche volta, ma inevitabile. Ma infatti i maliziosi, insomma qualcuno dice un po' maliziosamente che la busta arancione non la riceveremo, o comunque i giovani non la riceveranno, per evitare di, come dire, prendere coscienza del fatto che la pensione pubblica sarà sempre più bassa e ridotta. D'altra parte, come dire, le scelte di questo governo, le scelte ultime insomma della legge di stabilità passata, non sono state molto favorevoli nei confronti della previdenza complementare. Da un lato la possibilità di avere il TFR in busta paga, opzione scelta non da pochissimi, tanto praticata, però come dire è un messaggio. Il fatto che i fondi pensione siano stati tassati molto di più, quindi diciamo quello che i fondi hanno incassato come investimenti è tassato molto di più, tutto questo diciamo porta al fatto che, come dire, non ci sia una grande sensibilità verso la previdenza complementare, il pilastro che dovrebbe in qualche modo accompagnare la parte pubblica della pensione. Bene, Carla, grazie per il tuo lavoro, grazie per il lavorone che hai fatto con questa guida in edicola oggi con Il Sole 24 Ore, un lavoro davvero da tenersi sul comodino, direi, anche se non è proprio un tema con il quale vorremmo buttarci nelle braccia di Morfeo la sera. È vero. Però no, poi posso dire che è scritto in maniera semplicissima, esattamente come Maria Carla De Cesari parla e ci spiega il tema pensioni, anche la guida è fatta in una maniera altrettanto divulgativa, per cui vi invito a prenderla perché è davvero un lavoro utile. Grazie Carla. buona giornata. Grazie a voi. Grazie, sono Carla. Stata ansiogena? No, direi che però è vero che l'idea della pensione mette ansia dal punto di vista dei denari e anche dal punto di vista del cuore, perché la vita no, si allunga, ma noi abbiamo allungato la nostra vita, abbiamo guadagnato anni, ma abbiamo anche qualità di vita in quegli anni. Allora oggi parliamo di ansia, Deborah, affrontando il tema pensione, ha cercato un pochino di rassicurarci, non hai mandato dei messaggi particolarmente ansiosi. Io invito sempre alla presa di coscienza, poi se le notizie non ci allietano più di tanto, ma quella famosa consapevolezza di cui parliamo spesso. E quindi, se l'ansia la conoscete, se avete la sensazione che stia superando i livelli di guardia, se avete imparato invece a gestirla, se ci convivete tra alti e bassi, 800 24 00 24. E su, sei sempre il più, e giù, sei un uomo in più, e su, sei sempre tu. E oggi parliamo di ansia, chi non la conosce, no? Chi non ha mai avuto la sensazione di sperimentarla. Bene, perché l'ansia nasce con noi, è un'importante funzione del cervello che ci permette di superare con successo, perché no, le sfide, gli impegni e i problemi che la vita ci mette ogni giorno di fronte. Come a dire che l'ansia è quel pizzichino in più, quell'additivo che ci permette di affrontare gli ostacoli, di superarli, è in un certo senso il sale della vita quando è buona. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia, l'ansia cattiva, quella che ci fa sentire in una perenne condizione di pericolo, in costante allerta, incapaci di prendere decisioni, di fare, ma anche di stare e di essere nel presente, sempre un po' proiettati nel futuro, con pensieri negativi, a volte catastrofici. È questa l'ansia che attenta alla nostra salute, oltre a togliere vita alla nostra quotidianità. Ed è di questo tipo di ansia che ci occuperemo oggi. Intanto voglio salutare la nostra ospite, la professoressa Cristina Colombo, che è responsabile del Centro di Disturbi dell'Umore dell'Ospedale San Raffaele di Milano e docente presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Professoressa, grazie per essere con noi, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Professoressa, partiamo da uno studio svedese pubblicato su una prestigiosa rivista che avverte: chi soffre di disturbi d'ansia ha un rischio aumentato del 50% di sviluppare una demenza senile, la più diffusa tra le quali è la malattia di Alzheimer. Ci aiuti un po' a leggere la notizia per spegnere un po' l'ansia, perché considerando che l'ansia è il male del secolo, questi risultati ci allarmano un po'. Ci aiuti a leggere la notizia. Allora, il lavoro è un lavoro importante, hanno studiato dei gemelli, che è un modo per studiare tutte le possibili relazioni genetiche fra una malattia e la sua causa sostanzialmente. È uno studio ben fatto su tante persone che effettivamente mette in relazione il rischio, sono gemelli che sono stati seguiti per 28 anni, quindi per un tempo molto lungo. Se avevano dei sintomi di ansia, se manifestavano dei sintomi di ansia nel corso della loro vita, avevano un rischio maggiore di sviluppare la demenza. E diciamo, questo è il dato brutto, quello che ha citato lei come la catastrofe, l'ansia fa venire la demenza. In realtà poi nello stesso articolo ci danno anche quelle che possono essere le letture un pochettino meno catastrofiche, cioè che magari ci sono delle persone che proprio perché cominciano ad avere delle alterazioni cognitive, a non ricordarsi le cose, vanno un po' in ansia, che quindi rilevare l'ansia in questi soggetti semplicemente era avvertire in anticipo che stava succedendo qualche cosa, piuttosto che l'uso dei farmaci. Queste persone magari per curare l'ansia avevano usato dei farmaci e questi farmaci in qualche modo potevano alterare le funzioni cognitive. Quindi il dato c'è, è un dato importante e va tenuto assolutamente in considerazione, però non è una certezza, ecco, non è un dato scientifico certo che avere l'ansia automaticamente comporti diventare dementi, un rischio di diventare dementi più alto della popolazione generale. Ecco, questo ci rassicura. 800 24 00 24 per parlare della vostra ansia, per cercare di capire se in qualche modo e come minaccia la vostra salute. Professoressa Colombo, lo studio parla anche del cortisolo, quello che è noto, no, come ormone dello stress, che sembra minacciare la salute cerebrale. È corretto questa relazione? Sì. Il motivo per cui viene fatto questo studio è proprio questo. Lei ha correttamente citato quella che noi chiamiamo ansia fisiologica, che sembra un'assurdità, ma in realtà l'ansia è una componente comportamentale fondamentale. Se noi avessimo avuto degli antenati non ansiosi, non saremmo qui, vero? Esatto, quindi l'ansia è quello che, se voi pensate a un animale che viene attaccato, l'animale che viene attaccato da un animale più grosso, prima di decidere che cosa fare, mette in atto una serie di comportamenti. Il gatto inarca la schiena, muove i muscoli, attiva una produzione ormonale, e tutto in funzione del fatto che il suo cuore deve pompare sangue nei muscoli, dopodiché lui decide se attaccare questo animale perché è più piccolo di lui e vale la pena di farlo, o tagliare la corda. Comunque deve usare i muscoli, quindi ha bisogno di sangue. Quindi l'ansia è un modo fisiologico di rispondere a quello che è un evento stressante. Va bene se questa cosa si contiene nell'arco di un periodo molto breve. Quindi, a fronte di un evento stressante, nell'arco di pochi minuti o di qualche ora il mio corpo reagisce per affrontare questa situazione e poi tutto si placa. Perché se invece i livelli ormonali che mantengono la mia pressione altissima, il mio battito cardiaco elevato, tutte le mie funzioni che devono rispondere all'ansia vengono costantemente tenute attive, questa cosa produce un danno, è come una macchina che continua a girare ad una velocità superiore a quella che deve tenere per tantissime ore. Quindi è il vivere proprio in costante allerta. Esatto, è la cronicità, diciamo. Questo ormone, il cortisolo, che è fantastico, ci serve tantissimo, è quello che la mattina fa sì che attiviamo tutte le cose che dobbiamo attivare, ci alziamo e ci muoviamo, e che è quello che ci fa reagire ad una situazione di ansia. Se mantenuto regolarmente alto, combina dei guai. Uno dei guai che combina è anche una delle aree cerebrali che sono invece deputate, per esempio, alla gestione pratica dei problemi e quindi a rispondere in maniera razionale alle cose. Il motivo per cui gli ansiosi sono a volte agitatissimi, irrazionali, fanno delle cose assurde. Vogliamo fare un profilo? Ci aiuta a fare un profilo dell'ansioso per vedere quanti di noi si riconoscono? Perché quando diciamo ho l'ansia, noi facciamo riferimento ad una serie di sintomi e di situazioni tra loro molto diverse. Probabilmente io ho un'ansia diversa da quella che può sperimentare Deborah, no? Siamo diverse non solo geneticamente, ma anche come educazione, ambiente, stimoli, modi di affrontare la vita. Vogliamo provare a tratteggiare quelli che potrebbero essere i segnali, perché ci sono anche persone che convivono con l'ansia, sono vittime dell'ansia, ma non riescono a riconoscerla, perché come quando noi sentiamo un rumore fastidioso, poi ci abituiamo a questo rumore, non lo sentiamo più, e quindi può capitare anche, possono esserci situazioni in cui la persona convive con l'ansia, ne paga le conseguenze, ma non è consapevole. Allora ci sono degli altri segnali che oggi con lei la professoressa Colombo ci aiuterà ad individuare, che ci fanno capire quanto e come l'ansia attenta alla nostra salute. Professoressa Colombo. Sì, esattamente così, nel senso che una persona normale chiama ansia la situazione che verrebbe chiamata di stress. Io devo fare una cosa importante, questa cosa mi preoccupa, e quindi prima di fare questa cosa io ho una serie di sintomi, posso avere una sensazione di agitazione a livello mentale, oppure posso proprio avere dei sintomi fisici, quindi la sudorazione, la tachicardia, respirare accelerato, tutti questi sintomi fanno parte di quel quadro di attivazione dei mammiferi di cui abbiamo parlato prima, e ne siamo molto consapevoli, li identifichiamo e li chiamiamo ansia. Poi è vero che alcune persone hanno molte manifestazioni fisiche, ci sono quelli che a fronte di uno spavento sudano, appunto, hanno un'accelerazione del battito cardiaco, altre che invece hanno molta agitazione mentale, cioè pensieri che si affastellano, che non arrivano da nessuna parte. Ognuno poi è fatto a modo suo, però lo identifica come allora una cosa chiediamo ai nostri ascoltatori dove colpisce la vostra ansia, più a livello fisico, più invece a livello psichico mentale. 800 24 00 24. Andiamo a Maria da Cremona, poi professoressa Colombo, vorrei tornare su questo cortisolo che è un po' la cartina tornasole del nostro livello di ansia. C'è modo di misurarlo, c'è modo di spegnerlo e tenerlo un po' sotto controllo? Maria, buongiorno da Cremona. Buongiorno a voi tutti, a lei dottoressa. Ho 43 anni e ho avuto problemi di ansia, in questo momento sono un po', come dire, commossa, perché emozionata, esatto, e quindi sto avendo la tachicardia, però penso che sia sano. Siamo, vero, dottoressa? Professoressa, tutto sotto controllo, un po' di batticuore, sì. Esatto. Questo è sano, eh? Sto guardando il mio giardino per rassicurarmi. Allora, Maria, ci racconti. Allora, io ho avuto problemi di ansia perché ho avuto un disturbo di personalità del tipo border che ho curato, e dopo 10 anni ne sono uscita. E il fattore ansiogeno mi bloccava e la sentivo proprio a livello fisico, alla bocca dello stomaco, e si ripercuoteva sulla mia vita pratica di tutti i giorni provocando inerzia. Sono riuscita in primis a gestire questo comportamento con il diazepam, che è praticamente il Valium, e poi ho iniziato gradualmente, essendo in uno stato mentale più tranquillo, più sereno, a cercare di ragionare in modo razionale sulla causa perché sentivo ansia, e cercando di razionalizzarla riuscivo a fare ordine mentale sulla situazione, ecco. Allora, grazie Maria per questa testimonianza, che vorrei subito dopo i mercati commentare con la professoressa Colombo, perché Maria ci manda un messaggio molto rassicurante. Professoressa Colombo, da delle situazioni anche patologiche si può uscire se, certo, opportunamente diagnosticate e trattate. Ci torniamo subito dopo con la professoressa Colombo, intanto aspettiamo le vostre telefonate, cerchiamo di capire quanto l'ansia danneggia la nostra salute, se riusciamo a tenerla sotto controllo, dove si manifesta. Parleremo anche del cortisolo, dell'ormone dello stress. Ci sono dei segnali che ci possono avvertire che i livelli di questo ormone sono sopra la guardia? Si può misurare? L'avete mai fatto? Vi aspetto. Cuore e denari. Torniamo veloci perché il tempo scappa. 800 24 00 24, il nostro numero verde a disposizione per questa seconda parte di Cuore Denari, in cui siamo partiti da una ricerca che ha messo in evidenza la relazione tra ansia e salute cerebrale, quella che da molti è ormai considerata una campagna di vita, è stata definita il male del secolo, aumenterebbe il rischio di sviluppare una demenza, in modo particolare l'Alzheimer. Ne abbiamo commentato la ricerca insieme alla nostra esperta, la professoressa Cristina Colombo, che è responsabile del Centro dei Disturbi dell'Umore all'Ospedale San Raffaele di Milano e docente presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Professoressa Colombo, riprendiamo la storia di Maria, che ci ha raccontato la sua esperienza, ha avuto un problema di ansia, un disturbo che è stato diagnosticato, trattato e superato. Questa è una buona notizia. Sì, è corretto, nel senso che l'ansia sicuramente si cura sia, come ha detto la signora, utilizzando dei farmaci, o anche imparando delle tecniche per gestirla, quindi facendo una psicoterapia, un intervento psicologico e non necessariamente un intervento farmacologico. Abbiamo capito che è l'ansia quella cattiva a farci ammalare, e a farne le spese però non è solo la salute del nostro cervello, ma quella generale, poiché quando siamo stressati l'aumentata produzione ormonale rende più vulnerabile, diciamo così, il nostro sistema immunitario, riducendo la produzione di anticorpi e rendendoci quindi più vulnerabili alle infezioni. Tanto che molti disturbi che non trovano una causa apparente o una conferma con analisi cliniche potrebbero essere proprio espressione di un disturbo d'ansia. Ci scrive un'ascoltatrice che per chiederci: ma è possibile che la mia ansia mi faccia venire il mal di pancia? Premetto, sono molto ansiosa, ne ho anche i motivi, io cerco di ragionare, ma la mia pancia non dà tregua. Mi dica, dottoressa, cosa faccio? Professoressa Colombo, della relazione tra pancia e cervello abbiamo parlato tante volte, ma questo è proprio un caso, no, evidente. Sì, tipicamente la sintomatologia fisica, come dicevamo prima, è ad ampio spettro. Avere problemi di pancia, chiamiamoli, è frequentissimo. Tenga conto che la pancia è piena di recettori per tutti gli ormoni, quindi sicuramente l'intestino è uno degli organi che risente di più. di un evento stressante, per esempio. Il cortisolo viene attivato quando viene prodotto in eccesso, funziona su una serie di organi, tra cui anche la pancia. Uno dei motivi è che, teoricamente, per tornare al nostro animale, una delle cose che l'animale fa per poter correre veloce è svuotare l'intestino, no? E quindi è uno dei riflessi che in automatico viene messo in atto in una condizione acuta di stress. Fisiologico sarebbe, nell'ansia patologica diventa il problema, perché la persona ha sempre questo problema con la pancia. Professoressa Colombo, a proposito di cortisolo, del nostro ormone dello stress, che potrebbe minacciare anche la salute cerebrale, come abbiamo anticipato, ma basterebbe misurare i livelli di questo ormone per avere facilmente un quadro della situazione? Ma sì, diciamo in teoria sì, poi non c'è affatto indicazione, certo, su questo, anche perché poi il rischio è ci mettiamo a controllare il cortisolo. Tenga conto che il cortisolo è sostanzialmente, si chiama anche idrocortisone, è come pigliare un cortisonico, è una cosa importantissima che producono le nostre ghiandole surrenali, che ha tutta una serie di funzioni, tra cui anche una importante funzione antinfiammatoria. Esistono proprio delle patologie in cui viene prodotto in maniera esagerata questo ormone. Una tra tutte abbastanza rara è la sindrome di Cushing. Tenga conto che uno dei sintomi di questa sindrome è anche la perdita di memoria. Il cortisolo sostanzialmente va a bloccare la produzione di alcune sostanze che nel cervello servono a riparare le cellule, servono a mantenere la salute delle cellule. E quindi se queste cellule fanno parte di un sistema, per esempio quello della memoria, nel momento in cui le cellule non vengono più riparate dal prodotto che viene inibito dal cortisolo in eccesso, fa sì che la persona piano piano dimentichi le cose e quindi veleggi verso la demenza. In questo caso si può curare, professoressa Colombo? Ci sono delle terapie per curare chi soffre per esempio della sindrome di Cushing, e vengono fatte delle terapie per tenere i livelli bassi di cortisolo. Ecco, questo volevo sapere, se il cortisolo può essere tenuto a bada. Ma per esempio la dieta, ci sono le diete piene di proteine animali producono un sacco di cortisolo. No, e quindi ridurre l'introduzione di proteine animali, di carboidrati, è uno dei modi per tenerlo basso. Professoressa Colombo, quindi dieta, stile alimentare importante, ma se non volessimo naturalmente misurarne i livelli, ci sono degli altri segnali? Lei ha fatto riferimento alla memoria per una sindrome particolare, ma mi spiego, l'eccessiva stanchezza, quella forma di astenia, l'incapacità a riposare bene, una cattiva qualità del sonno, ci sono dei segnali che la tendenza di ingrassare, una fame esagerata, potrebbero essere spie di del cortisolo che ha superato i livelli di guardia? Sì, perché una delle cose che il cortisolo in eccesso può fare è per esempio impedire che vengano prodotti correttamente gli ormoni della tiroide. Se gli ormoni della tiroide non vengono prodotti correttamente, le persone sono stanchissime, ingrassano, hanno quell'aspetto affaticato, no, dell'ipotiroidismo sostanzialmente. Quindi questi segnali teoricamente sono dei segnali su cui il medico di base dovrebbe un attimo vigilare, fare una valutazione dei livelli degli ormoni tiroidei e poi capire se gli ormoni tiroidei sono abbassati perché uno ha una patologia, un paziente ha la patologia della tiroide, oppure se per esempio ha dei livelli di cortisolo troppo alto. Ecco, questa è un'indicazione preziosa perché spesso non viene data. 800 24 00 24, se volete parlare di ansia, se volete approfondire questo tema molto interessante, no? Il cortisolo, questo ormone che noi diciamo dello stress e che la professoressa Colombo ci sta raccontando svolge numerose funzioni, si può anche misurare, si può anche tenere un po' sotto controllo, ma vorrei parlare anche, professoressa Colombo, di quando l'ansia diventa talmente forte da trasformarsi in una paura ingovernabile, una condizione che viene descritta tecnicamente come attacco di panico. Naturalmente ne parleremo nel corso della trasmissione, ma prima lascio la parola a Giovanni che ci chiama da Teramo e poi vado a sentire Fulvia che invece ci chiama da Brescia. Giovanni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Sì, io volevo raccontare la mia esperienza con l'ansia, proprio l'altra notte mi è successo, sono arrivato con la pressione, la minima, a 120 e poi anche sudorazione e tachicardia. Volevo chiedere alla dottoressa se potevo rimediare in un qualche modo in questo stato ansia quanto mi succede in questo caso, cosa posso fare? Grazie Giovanni. Andiamo anche a Fulvia che ci chiama da Brescia, poi dopo le informazioni sul traffico chiederemo alla professoressa Colombo di commentare naturalmente questi interventi, di dare delle indicazioni, di sottolineare eventuali relazioni. Fulvia, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie. Io ho un problema semplicissimo, una ragazzina di 15 anni che va a scuola, fa un liceo scientifico e niente, viene colta ma in modo veramente molto forte. Infatti ho sentito l'intervento di prima, anche il mal di pancia, dice mamma mal di pancia, non posso fare niente, panico totale. Lei 2 minuti prima sa tutto, arriva a scuola, vabbè, l'abbiamo avuta tutti, la paura dei docenti, dell'interrogazione. Secondo me però lei un po' esagera e forse, non lo so, io non vorrei arrivare a dare tipo Valium, cose del genere, però forse qualche rimedio un po' più naturale per tranquillizzarla. Vabbè, naturalmente non ha paura di tutte le docenti, di tutto il corso scolastico, tutta la giornata scolastica, però un paio di docenti, proprio lei si fa sopraffare, certo, e va nel panico totale, testimoniando le sue compagne, dicono guarda, 2 secondi prima lei sa tutto e poi tavola rasa, blocco totale, mal di pancia, non sa più dire niente. Se mi date un aiuto anche. Grazie per Fulvia, una mamma preoccupata. Il nostro ascoltatore che chiede una, se esiste, e lui suppone naturalmente di sì, che ci sia una relazione tra ansia e ipertensione, ad aumentare la minima, un indicatore molto prezioso. Chiederemo naturalmente un consiglio alla professoressa Colombo. E la telefonata di Fulvia dimostra che l'ansia non ha età, può colpire anche i nostri ragazzi. Come aiutarli ad affrontare e a convivere con questa compagna di vita quando diventa eccessiva? 800 24 00 24. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme con la professoressa Colombo, le vostre storie, le vostre richieste. Cuore e denari. Ultima parte di questa trasmissione, siete ancora in tempo per chiamare il nostro numero verde. Stiamo cercando oggi di mandare in pensione l'ansia, prima che l'ansia mandi in pensione la nostra salute, quella del nostro cervello. Più relax, meno ansia, anche perché l'ansia può provocare problemi di insonnia. I risultati delle ricerche suggeriscono che anche i disturbi del sonno possono causare un disturbo d'ansia, perché la mancanza di sonno stimola la parte del cervello più strettamente associata a depressione, ansia e altri disturbi psichiatrici. È un circolo vizioso che ingabbia molti di noi. 800 24 00 24 per parlarne con la nostra esperta, per essere aggiornati sulle ricerche, per raccontarci anche come e in che modo siete riusciti a superare il vostro problema. Professoressa Colombo, il nostro primo ascoltatore chiede di affrontare la relazione tra ansia, uno stato d'ansia, e i livelli pressori. Sì, che abbiamo detto, il cortisolo, una delle cose che fa è appunto aumentare la pressione sanguigna per ottenere la capacità di correre che ci serve, che nel caso del sonno ovviamente il fatto che una persona si addormenta è inutile e solo dannosa. Dal punto di vista generale il concetto è che l'ansia dovrebbe essere curata se è costante, cioè se una persona ha sempre l'ansia, per evitare tutta questa sequela, questa cascata di catastrofi di cui abbiamo parlato, è meglio curare l'ansia in termini farmacologici che pagarne le conseguenze. Esatto. Che, ecco. Sull'ansia invece acuta, sulla situazione acuta di un momento e che non si ripete frequentemente, teoricamente è più corretto un intervento appunto di tipo cognitivo, cioè imparare a riconoscerla. Lei prima accennava alla problematica delle persone che non si accorgono di averla, che è molto frequente, no? Ci sono delle persone che vivono in funzione di anticipare tutto perché l'ansia domina la loro esistenza, ma pensano che sia il loro stile di vita e che sia uno stile corretto e che non ce ne siano degli altri. Ecco, la cosa importante è riconoscere che alcune situazioni possono a me generare ansia e devo fare un intervento il più possibile di scaricamento della tensione, cioè analizzare il problema, cercare di capire perché mi è venuta l'ansia per quella situazione. Cercare di non affrontarlo in toto, devo fare troppe cose domani e sono molto preoccupato di non farcela, cercherò di gerarchizzare la giornata, cioè devo imparare a non affrontare le cose tutte insieme, ma ad affrontarle una alla volta in modo che l'ansia sia legata ad ogni singola cosa e quindi sia molto ridotta. Professoressa Colombo, la mamma della nostra della ragazzina usava la parola più spesso, no? Va in panico, va in panico. In realtà sì, noi usiamo questo termine in modo spesso sì, improprio, no? Per descrivere una situazione che ci allarma molto. Ma io abbiamo pochi minuti di trasmissione, ma sufficienti per parlare di quella condizione, di quella situazione in cui l'ansia diventa talmente forte da trasformarsi in una paura ingovernabile, in un attacco di panico per l'appunto. Quanto rischia un soggetto ansioso di andare incontro a questo evento? L'attacco di panico è una forma d'ansia, è una forma molto diffusa, molto frequente ed è appunto caratterizzata da questa insorgenza acuta dei sintomi che sono prevalentemente dei sintomi fisici: il cuore batte, mi manca il fiato, penso che morirò nell'arco dei prossimi minuti. Tutta questa situazione dura pochissimo, dura pochi minuti e poi rientra. Il problema dell'attacco di panico non è tanto l'attacco di panico in sé che dura poco, ma il fatto che genera una condotta di comportamento completamente alterata. Le persone che l'hanno provato passano spesso la loro vita in funzione del fatto che non deve tornare. La paura che mi torni fa sì che io, se ho avuto l'attacco di panico per esempio in autostrada, in macchina non userò mai più la macchina in autostrada, se ho bevuto la Coca-Cola non berrò mai più la Coca-Cola, cioè cercherò quello che secondo me può essere la causa che l'ha scatenata e cambierò il mio stile di vita, e quindi questo diventa estremamente problematico, mentre invece la cosa corretta, se l'attacco di panico si ripete nell'arco della settimana, nell'arco di qualche settimana, è curarlo. Soprattutto su una persona molto giovane va tolto, perché i rischi che produce la condotta che io metterò in atto per evitare un ipotetico attacco di panico è molto peggiore dell'attacco di panico in sé, che dura pochi minuti. Se io imparo a riconoscerlo posso anche conviverci in teoria, dico so che mi viene il panico, mi calmo, lo faccio, so che deve passare e poi affronto la giornata cercando di non farmi condizionare troppo, però questo è impossibile, nessuno ci riesce e quindi spesso e volentieri la vita è rovinata non tanto dall'attacco in sé ma dalla paura di averlo, da che quella, è il danno peggiore. Ecco, l'evitamento, come vero? Sì, la condotta di evitamento. Vincenzo, buongiorno da Brindisi. Intanto vi anticipo che sulle nostre pagine del programma abbiamo messo delle indicazioni per uno stile di vita che aiuti, naturalmente con le ricerche alla mano che lo dimostrano, a ridurre, a tenere un po' sotto controllo l'ansia. Quindi i consigli sembrano sempre uguali e banali, ma a provare a seguirli potrebbe veramente migliorarci la vita. Penso all'attività fisica, secondo le ricerche alcuni studi dicono che se è regolare e ben praticata diminuisce del 20% il livello di ansia. Si può provare a camminare, c'è una bellissima iniziativa anche per gli anziani, e poi la respirazione. Usiamo il respiro come alleato del nostro benessere. Se andate sulle pagine di Cuore Denari trovate una respirazione guidata. Ma intanto Vincenzo da Brindisi, benvenuto. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Grazie, complimenti anche a lei, ci dica. Grazie, grazie. Senta, io chiamo per mia moglie. Sì. 54 anni. È nata con l'ansia, non è che le è venuta così, è proprio ansiosa. È nata con l'ansia, cioè tutti sì, nasciamo con l'ansia, per fortuna, come ha spiegato la professoressa Colombo, se no saremo. Sì. Però l'ansia con cui convive la moglie di Vincenzo è un'ansia cronica, una continua allerta, una preoccupazione costante, e veramente ti rovina la vita. Vincenzo. No, sì. E poi è peggiorata perché diciamo che purtroppo è successo la perdita di mia figlia, e allora diciamo che è un caso. Io penso che non siamo programmati, no? Nel nostro DNA non c'è la cosa che il gene che ci aiuta a superare un dolore di questo tipo, e le sono molto vicino, Vincenzo. Intanto, professoressa Colombo, allora in questi casi tante volte ad occuparsi della persona ansiosa sono le persone che le vivono accanto. Perché anche loro hanno un ruolo importante, no? Si tende o a banalizzare o a diventarne vittime. Qual è il consiglio che può dare al nostro ascoltatore? Un'indicazione? In realtà è proprio così, la persona che sta accanto all'ansioso spesso è o insofferentissima e quindi abbandona ansioso se stesso, oppure più frequentemente diventa quello che si chiama il partner fobico, cioè condivide l'ansia, va bene, dobbiamo arrivare lì, ci arriviamo 3 ore prima, io non sono d'accordo, ma piuttosto che vederti in ansia vengo con te 3 ore prima. Quindi, come dire, lo asseconda in questo comportamento, mentre invece forse la cosa corretta sarebbe il contrario, cioè mantenere un'aderenza alla realtà, non c'è nessun motivo di essere ansiosi in questa situazione e quindi non lo siamo, non lo sono io, cerchi di non essere anche tu. La persona che vive accanto si fa quasi sempre, diciamo, travolgere, nel bene e nel male, appunto, non lo sopporto più un marito ansioso, lo lascio, piuttosto che lo assecondo in tutto. Non va bene nessuna di queste due cose, no? Teoricamente mantenere il proprio assetto non ansioso aiuta moltissimo l'ansioso ad imparare che ci sono anche degli altri sistemi per vivere in una maniera diversa. Una cosa lei ha detto importante, e cioè il sonno. Tenga conto che una delle funzioni del sonno è quella di ripulire il cervello dalle scorie, avviene tutte le notti, se le persone sono in ansia e dormono male, questa pulizia non avviene, quindi il rischio di aumentare il deterioramento cognitivo, di avere dei danni, una demenza aumenta, quindi anche quello entra molto nella relazione fra il rischio di diventare dementi e l'ansia. Professoressa Colombo, noi la ringraziamo per essere stata con noi. Ai nostri ascoltatori diamo naturalmente appuntamento alle 10.30 domani. E cercate di dormire bene, una buona qualità del sonno ci salva e ci rende forti e pieni di energia per affrontare la quotidianità. Appuntamento a domani, buona giornata, buona grazie giornata per l'ascolto. A tutti.